Io sono la colpa non espiata. 14 agosto. Isabella Vonu adesso mi ha trovata qui anche di giorno. Io, perché non rimani a U? Lei, io rimango con te. Io, ancora a lungo? Lei, dipende dalla tua misericordia. Io, tu devi capire che io devo aiutare anche altri, e non dare solo a te, non posso far questo. Lei, attingi al tuo amore e aiuterai. Io, è permissione di Dio, che voi veniate da me? Lei, sì. Io sono veramente felice che il buon Dio ha pensato a me. 23 agosto. Soltanto una delle ombre ha preso una forma, un uomo anziano. Egli è in continuo movimento e con la sua inquietudine mi fa pensare all'ombra di un albero mosso dal vento in un giorno di sole su una strada sassosa. È lo stesso ritmo dentro di lui. 25 agosto. L'uomo è tremendamente furioso, però durante la preghiera andò un pochino meglio. 27 agosto. Egli parla. Mi grido, aiutami. Io, volentieri, ma chi sei? Io sono la colpa non espiata. Io, che cosa devi espiare? Lui, sono stato un diffamatore. Io, posso fare qualche cosa per te? Lui, la mia parola sta nello scritto e vi continua a vivere, e così la menzogna non muore. Io, e come ti posso aiutare allora? Allora mi venne vicino e premette la sua testa orrenda sulla mia faccia. Fu ben difficile, ma non ho perduto conoscenza. Però io ne ebbi un vero brivido. 28 agosto. Io, ti va meglio? Ti sei accorto che ho offerto per te la Santa Comunione? Lui, sì, così tu espii i miei peccati di lingua. Io. Non puoi dirmi chi sei? Lui, il mio nome non deve essere più fatto. Io, dove sei sepolto? Lui, a Lipsia. Io non riesco a capire come fate a trovarmi. Lui, la strada che si deve seguire. Io, ci saranno ancora molti per questa strada? Lui, 7. Io, mi potresti dare spiegazioni su altre anime? Lui, no. Io, chi c'è ancora qui in camera? Io vedo ancora due ombre. Lui, noi siamo isolati. Io, vuoi dire che non vedi gli altri? Lui, sì. Egli rimase tutta la notte, continuando ad andare via e qua. 29 agosto. Lo ho visto quasi tutto il giorno, egli mi ha veramente perseguitato. Io, perché sei sempre qui? Ti prego vattene via, quando sono con altra gente, del resto allora io non ti posso dare niente. Allora egli mi diede un urtone, che quasi cadevo giù per le scale. Io, tu non puoi spremere il mio aiuto. Lui, dove sono i tuoi sacrifici? Io, scusami se di nuovo ho pensato a me stessa. Egli non mi lasciò più fino alle 7 di sera. Fu una giornata pesante. Io mi rifugiai in chiesa, lì stette in piedi davanti a me, ma almeno stette fermo. Io, vedi Cristo nel sacramento o nella realtà? Lui, il sacramento è per voi viventi, la realtà della visione solo quando io sarò puro. 30 agosto. L'uomo mi tormenta in una maniera tremenda, egli mi dà urtoni e mi percuote. Alla domanda, perché fai così? Egli mi urlò, tu mi hai dimenticata. Io, allora di finalmente tutto quello che ancora vuoi. Tu preghi troppo poco e devi dare di più. Io, non posso fare di più per te. Lui, tu devi. È vero, prego poco, ma io sono così stanca, che spesso non ne posso più. Lasciami in pace che allora pregherò di nuovo di più. Allora divenne come un uomo arrabbiato, mi diede un urtone e disparve. Alle 5 venne di nuovo e mi gridò, alzati. Poi rimase da me finché mi recai in chiesa. Quando tornai era già in camera. Io, fammi il piacere e vattene via. Allora si gettò su di me, io non posso descrivere quell'orrore. Era molto di più di quanto posso sopportare. Eppure non mi voglio di nuovo lamentare, però io ho tanta paura. 3 settembre. In questi giorni ne ho passate di più che non in tutto questo tempo. Fu la lotta di un pazzo. Ora sembra superato. Oggi egli era assai pacifico e contento, ma non parlò più. 4 settembre. Egli venne da me sorridendo. Io, oggi mi piaci. Lui, vado nello splendore. Io, non dimenticarti di me. Lui, i vivi pensano e dimenticano, i morti non possono dimenticare, che cosa ha dato loro l'amore. E disparve. Alla fine ancora una consolazione. Chi fu? Chiesi a tanti, ma non ebbi risposta. I miei mi deridono, perché mi sentono spesso parlare da sola in camera mia. Io rispondo che ciò è un segno che ormai sono sclerotica o rimbambita.